falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi vi racconto la storia di una persona geniale, di una persona di cui si dice, e io non ho titoli per dirlo, che era bellissimo, amava la musica, amava la moda di Armani, amava le donne e Charlie Parker, amava Jimi Hendrix, Hitchcock, Keith Haring, Andy Warhol, amava New York, ma amava anche l'eroina. Bramava il successo e quando ha toccato la cima è caduto giù, e anche lui vittima della leggenda dei 27 anni, perché è morto a 27 anni, giovane e tossicodipendente. Jean-Michel Basquiat ha avuto una vita breve, però intensa. Noi ve la raccontiamo a partire proprio dall'origine, perché lui ha sempre raccontato di essere un nero del ghetto. Però la verità è un'altra, perché lui nasce a Brooklyn, un sobborgo di New York, il 22 dicembre del 60. Suo padre Gérard Basquiat è un contabile haitiano, un uomo severo di buona famiglia. La madre Mathilde Andradas è statunitense di origini portoricane. Lui avrà anche due sorelle minori, Lisa e Giannini. Insomma, per quanto ami raccontare di essere nato nel ghetto, lui invece è di Brooklyn. La sua è una famiglia borghese, la madre gli insegna inglese e spagnolo, gli fa visitare tutti i musei, lo accompagna spesso al Brooklyn Museum, al Metropolitan Museum e al Museum of Modern Arts of New York. Gli regala libri d'arte, lo appassiona la pittura. Direi che è stata mia madre a insegnarmi le prime cose. La mia arte viene da lei. Ma non posso descrivere mia madre, ci vorrebbe troppo tempo. Così parla di lei Jean-Michel a Steven Hager, che lo intervista nell'85. Secondo quanto dichiara Basquiat, è proprio il pessimo rapporto con il marito che porterà la madre Mathilde sulla via della follia, tanto che verrà internata in una clinica psichiatrica allontanata dal marito e dai figli. E questo naturalmente sarà un duro colpo per Jean-Michel, che ha sempre raccontato di un padre violento che lo maltrattava. Quello che possiamo capire da molte testimonianze è che Jean-Michel da piccolo era già un bambino sensibile, sempre la disperata, indiscriminata ricerca di ogni forma di approvazione. E alcuni critici troveranno qui in questo bisogno continuo di conferme di successo il motore della sua ascesa, che forse voleva dimostrare di essere un in gamba di fronte a quella figura paterna che lo maltrattava, che incarnava il modello borghese di genitore, quello che lui rifiutava. Fin da quando ha 4 anni lui adora i cartoni animati, impara prestissimo a disegnare, tanto che nel tempo arriva a trascorrere intere giornate a disegnare solo fumetti. Quando ha 8 anni viene investito da un'auto, gli viene asportata la milza. Nel mese di degenza in ospedale la madre gli porta da leggere il testo di Anatomia, Grey's Anatomy di Henry Gray. E ora scoprite da dove viene il titolo della serie Grey's Anatomy. Da quel momento nasce in lui la tendenza a inserire nelle sue opere elementi anatomici del corpo umano e la tendenza a copiare dai libri illustrati e riempire i suoi disegni di frasi. Perché Basquiat suona anche e c'è un gruppo musicale che si chiamerà Grey e che lui fonderà nel 79 assieme a dei suoi amici. Intanto, quando ha 11 anni, sa parlare, leggere e scrivere in spagnolo, in francese. A 14 si trasferisce con la famiglia a Porto Rico e tenta per la prima volta di fuggire da casa. Quando ha 16 anni la famiglia torna a New York e i rapporti con il padre peggiorano. Lui scappa ancora di casa e viene riportato a casa dalla polizia. Inizia a frequentare la CTS School, situata a Manhattan, destinata a ragazzi problematici, però dotati. Dopo qualche mese conosce e diventa amico di Al Diaz, che è un giovane graffitista. Attenzione. Ed è con lui che a 18 anni passa la sera a fumare erba mentre fumano alla City of School, dicono la frase sempre la stessa merda, intesa come l'erba che fumano. Così inventano la loro sigla, Samo, e dalle parole same old shit. Da quel momento iniziano a lasciare la loro traccia firmandosi Samo e Same O, seguito dal simbolo dei copyright. Sentiamo proprio Al Diaz. All'inizio Semo era solo un gioco tra di noi, senza alcun proposito in particolare. Al tempo fumavamo erba con una ragazza e i suoi genitori a Soho, e ogni volta che andavamo là era sempre la stessa merda, ogni santa volta le stesse conversazioni. Suo padre era un artista e lei si chiamava Elizabeth, e ogni volta ci si rollava un'altra canna ed era sempre la stessa merda, sempre. Così tra di noi parlavamo in codice e ci riferivamo a quello come Semo. Era sempre la stessa cosa, the same old shit. The same old shit, e sapete da dove cominciano? Dall'underground e la linea D della metropolitana newyorkese. È il periodo della nascita del graffitismo a Brooklyn e nel Bronx. E gli spazi pubblici, i muri, i vagoni dei treni della metropolitana diventano tele bianche per esprimersi. Nascono anche intanto l'hip hop, la breakdance, il rap. Il Falco e il Gabbiano. Ritroviamo Jean-Michel Basquiat, che è il protagonista della puntata di oggi, nel 1978, quando abbandona per l'ennesima volta la casa paterna, lascia la scuola e comincia a frequentare l'ambiente della School of Visual Arts senza iscriversi, senza avere il permesso, perché lui vive per strada in case abbandonate, condivide la stanza con qualche amico. Insieme al suo inseparabile amico Al Diaz comincia a fare un uso esagerato di stupefacenti e a graffitare, neologismo interessante, cioè a scrivere cose sui muri per le strade di New York, firmandosi S-A-M-O. Semo, come nuova forma d'arte. Semo, come la fine della religione che ti lava il cervello, della politica inconcludente, della falsa filosofia. Semo salva gli idioti. Semo, per la cosiddetta avanguardia. Semo, come la fine dei confini dell'arte. Le frasi di Semo vengono definite poesie di strada dal Soho News, richiamano veri e propri rebus, si crea un caso, si presentano come proteste contro la società contemporanea, contro le forme classiche della rappresentazione del fare arte. Frasi criptiche che appaiono al mattino sui muri o sulle lamiere dei vagoni metropolitani, incuriosiscono le persone. Alcuni giornali parlano di Semo e anche Kate Haring, nostro amico, perché ne abbiamo già parlato in precedenza al Falco e il Gabbiano, Kate Haring diventa un fan di Semo, si scatena una vera e propria caccia all'artista. Chi si cela dietro Semo? Chi è il guru, il predicatore dei muri di New York? In un'intervista rilasciata al The Village Voice, Basquiat rivela la loro identità in cambio di $100, così si rompe l'alleanza con Diaz, perché nessuno si aspettava che dietro a Semo ci fossero solo due 17enni. Jean-Michel inizia a realizzare per conto suo cartoline e t-shirt in uno stile che mescola una specie di espressionismo astratto e writing con la tecnica del collage. È tuo quel coro di sopra in quel loft? Ah, alla festa di Mary Fossi. Sì. Ti piace? Ah. Lo conosci Albert Smilo? Certo. L'ho inventato io quello, René Ricard. Senti, io so che spingere. Io farò di te una star. Vuoi mettermi sul ring con Milo? Posso metterti sul ring e posso anche fissare le date. Ma quelli famosi picchiano duro. Bisogna essere allenati. Dio, ho visto quel quadro. Mi vergogno di tutti quelli che ho. Allora, Samo. Semo. Semo. Qual è il tuo vero nome? Jean-Michel Basquiat. Beh, mi sembra un nome già famoso. Posso offrirti un caffè? Il momento in cui si rompe l'amicizia con Diaz è il momento preciso in cui Jean-Michel Basquiat inizia a camminare da solo, e cammina bene perché ha un fisico atletico, è fotogenico, indossa jeans larghi, magliette stampate, sneakers alte, Adidas, Reebok, porta occhiali grandi e scuri, ha uno street style molto ben definito, ha quella che si può definire chiaramente street credibility. Però la musica è sempre la sua grande passione. Con la sua band suona in locali underground, produce dischi, e quello che stiamo ascoltando è uno dei suoi delle sue opere. Però nelle sue tele la musica torna comunque con grande variazione, perché strumenti come sax, trombe, riferimenti a generi diversi compaiono nelle sue opere. I suoi musicisti preferiti sono Miles Davis, sono Dizzy Gillespie, Billy Holiday, Charlie Parker, che stiamo ascoltando adesso. Suona con la sua band, prova a guadagnarsi da vivere vendendo cartoline decorate da lui stesso. Sarà proprio il tentativo di vendere una delle sue cartoline che cambierà il corso della sua vita, perché vede una limousine accostare davanti a un ristorante di Soho. Da questa limousine scende Andy Warhol con un uomo e Basquiat decide che è arrivato il suo momento. Entra nel locale, si avvicina al tavolino dove si è appena seduto Mr. Warhol. Ha in mano le sue cartoline decorate ed ecco come viene immaginata la scena dal regista Schnabel nel film Basquiat del 96. C'è una voce nel tele di quel francese che sembra venire. Ti serve qualcosa? Volete comprare dell'analphabet art? $10. Sta tranquillo, non ci sono problemi. D'accordo, signor Bishop. Accidenti. Analphabet art, Bruno. Sì, cioè, voglio dire, arte stupida, ridicola, squallida. Oh, mi sembra interessante, è una novità. $10. Accidenti, non ci hai lavorato molto, posso dartene 5. Dai Bruno, tu sei ricco. Forse devi parlare con Bruno. Lei neanche ci lavora sulle sue cose. No, non è quanto si lavora su una cosa. Quello che conta è quanto riesci a farti pagare. Io prendo 10. Sono splendidi, Bruno. Penso che ne prenderò 2. Prendo... fammi vedere questi. Prendo questo e... oh, non lo so. Bruno, mi puoi prestare dei soldi? Una volta l'avrei definito il bivio, adesso lo chiamo colpo d'ala, perché è un momento in cui Basquiat in qualche modo conquista Andy Warhol, che compra alcune delle sue opere e lo convince che può conquistare la stima del padre della pop art. Vedremo se ci riuscirà. I Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la breve, intensa, maledetta e luccicante vita di Jean-Michel Basquiat. E in questo momento lui è diventato cliente fisso dei club più esclusivi della scena socioculturale di New York, tra cui il Club 57, il Mad Club, che vengono frequentati dallo stesso Warhol, l'uomo che lui è riuscito a abbordare e a conoscere vendendogli delle cartoline. Sono frequentati da Madonna, con la quale lui avrà una relazione di alcuni mesi, e da Kate Haring, con il quale stringerà un'amicizia che durerà fino alla morte. Conosce Diego Cortez, che diventa uno dei primi commercianti delle sue opere, che lo introduce sulla scena dell'East Village, e nel 1980 partecipa al Times Square Show, una retrospettiva organizzata da un gruppo di artisti dove debutta anche Kate Haring. In quel periodo interpreta perfino se stesso nel film documentario New York Beat, che uscirà nelle sale solo nel 2001 con il nome di Downtown 81, con la regia di Glenn O'Brien. Downtown 81 è una sorta di docufilm, anche un musical costellato di performance dal vivo nei locali dell'epoca, soprattutto il Mad Club e la Peppermint Lounge. Basquiat e molti altri personaggi interpretano se stessi in alcune giornate normali, giornate di riprese fatte tra l'80 e l'81. Si vede Jean-Michel vagare per le strade nel fermento creativo di un East Village devastato come era all'epoca. Siamo nell'81, lui partecipa alla retrospettiva New York New Wave. Il critico d'arte Ren Ricard pubblica The Radiant Child sulla rivista Artform, pubblicizzando Basquiat e il suo percorso artistico. E proprio The Radiant Child è un documentario su di lui, girato dalla regista americana Tamara Davis, che fra l'altro è la moglie di Mike D dei Beastie Boys. Sentiamo una breve intervista tratta dal documentario. E quindi sei senza soldi, giusto? Sì, dormo in giro, da amici. Di volta in volta in posti diversi? Sì, esatto. E come pensi di riuscire a sopravvivere? Beh, alla fine ho finito per sopravvivere. A Brooklyn o a Manhattan? A Square Park. Non hai mai pensato di prenderti un lavoro part-time, giusto per guadagnare qualche soldo per vivere? No, mai. Qualche volta mi è capitato di trovare dei soldi per terra, al Mad Club. Non so davvero come abbia fatto a stare in piedi tutti quei giorni senza dormire, mangiando solo patatine al formaggio. E al tempo, cosa ti sembrava tutto quello? Beh, non era divertente. Ma le patatine costavano solo 15 centesimi. Poi elemosinavo soldi in giro tracannando vino con i vagabondi. La prima mostra personale di Jean-Michel Basquiat avviene in Italia, precisamente nel maggio dell'81 a Modena. Ed è tutto ciò avviene nella Galleria d'Arte Emilio Mazzoli. Si tratta della prima personale di Basquiat ed è il gallerista che per primo ha portato in Italia Basquiat, che ho il piacere di avere in linea. Buongiorno. È un piacere di parlare con lei. Cosa devo dire di Basquiat? Che sono andato a New York. Esatto, intanto bravo, ha già preso la prima domanda. Che le stavo per chiedere come l'ho scoperto. A New York, io sono andato a New York perché mi hanno chiamato per la bravura del mio lavoro. Lavoravo con dei giovanissimi artisti italiani che erano stati invitati ad occupare gli spazi culturali newyorkesi. Quindi la cultura di New York mi ha chiamato là, insieme a Bonito Oliva e agli artisti della Transavanguardia. Sono andato a New York, ho aperto gli occhi. Certo. Dato che credo di non essere stato un cretino, ho cominciato a girare, dato che vivevo fuori dal sistema e non avevo relazioni con nessuno, ho cercato di frequentare le persone dell'arte, non le persone dello star system. Mi sono trovato con Diego Cortés, che era uno che scriveva su Edith Deac, che facevano questa rivista underground, che era un foglio, che era molto importante, un foglio da cui nasce tutta la cultura degli anni Ottanta. Okay. Allora con questo Diego mi dice: guarda, c'è un giovane artista da guardare, c'è una mostra PS1, che era una mostra alternativa al Bronx. Dice: vieni a vedere cosa succede. Noi abbiamo questi artisti che fanno questi graffiti. Sono andato a vederla, naturalmente mi sono piaciuti, gli ho detto: come si fa per avere questo ragazzo? Siamo andati nel suo studio, lui era il suo manager e c'era anche l'artista. Ho detto: mi piace moltissimo, lo invito a Modena, perché avevo l'occhio di fulmine, capivo che dovevo fare, gli ho comprati la cosa. Cosa l'ha colpito di questo ragazzo? L'ha colpito era... la modernità, l'intelligenza. Poi lui era un nero, ma era un nero bianco, era come Condoleezza Rice, per dire. Sì. Era un nero figlio di un ambasciatore, di un diplomatico haitiano, sì. Bellissimo ragazzo, molto colto, molto istruito, quindi non era un graffitaro per caso come vedi adesso in giro, certo. Era un graffitaro colto, aveva capito i tempi, quindi l'ho beccato il volo e abbiamo fatto questo lavoro. E umanamente, cioè che ricordo, cosa le viene in mente di dire di Basquiat dal punto di vista umano? Umano, un ragazzo educatissimo come tutte le persone, molto contemporaneo, girava con la radio addosso, quelle radio enormi, sì, che usavano allora con le cassette, gli piaceva la musica, quindi quando uno capisce la musica del suo tempo vuol dire che non è un cretino, certo. Quindi è una cosa importante, dunque la musica è una cosa che ci vuole cultura, per capire la musica ci vuole conoscenza e ci vuole anche orecchio, come ci vuole orecchio a guardare l'arte, che è molto simile alla musica. Allora, lui aveva capito tutto e era un ragazzo che interpretava perfettamente quei tempi, era maturo per portare avanti delle idee nuove. Certo. Quindi aveva orecchio, era uno che aveva orecchio per l'arte. Perché anche gli artisti figurativi possono avere orecchio, questo vediamo. Devono avere orecchio, se non hanno orecchio sono delle persone coglioni, certo. non sono dei politici, sono dei gossipari. Come si dice di questi pari, o dei trendy, come si chiama, quelli trendy, quelli che conoscono il sistema, oppure se devo che glielo dica in italiano, sono dei semeotici, che bello, sono più pratici nel capire il sistema che nel creare le cose. Certo. Vanno dietro al flusso, quindi tutti gli artisti, tutti i cantanti e tutti i poeti che vanno dietro al flusso, bello, sono dei minori. Lei ha detto una grande cosa che io sottoscrivo. No, io non ho detto niente, ho detto quello che penso, mi piace parlare in faccia. Ha fatto bene. Sono contento di aver fatto il Robin Hood alla rovescio, dato che sono molto convincente, ho fatto comprare tutti i quadri di Basquiat a tutti i miei amici che si sono fatti l'appartamento, quindi certo, ho fatto un'opera buona, no? Certo. Io non ne ho neanche uno, sono felicissimo perché avrei vergogna a guardare questi prezzi, lei mi dirà: perché costa tanto? È per forza, è morto giovane, certo, la finanza, che non c'entra un cazzo con l'arte, ha comprato tutti i quadri, poi hanno deciso, dato che è un buon artista, di farlo valere tanto. Certo. Se fosse vivo non varrebbe niente o poco, perché era molto drogato, non allora, diventò molto drogato, era disperato, tutti l'avevano abbandonato, nessuno si attentava più a guardarlo perché, come tutti i drogati all'ultimo livello, rompi i coglioni. Poi certo. Sapò perché è morto del suo difetto. Invece ci sono molti che amano far morire gli altri e poi dopo prendere l'eredità. Non so come ringraziarla, ci ha aiutato a inquadrare un periodo storico, una persona, ma ci ha detto anche delle cose molto interessanti sull'arte. Io da cantautore la ringrazio. E dopo la mostra in Italia, quasi un anno dopo, nel marzo dell'82, lui riscuote un altro successo, un apprezzamento da parte di pubblico, di critica, nella personale di New York, nella galleria d'arte di Annina Nosei. E qui ottiene un successo assoluto, sebbene abbia sempre, non so, gli abiti sporchi di colore, i dread, però è un artista affermato, con abiti firmati dai grandi stilisti. Magari i dread sono diventati più corti, il sorriso è attenuato di chi sa di essere una star e fa di tutto per ricordarlo a chi lo incontra. Intanto parte una relazione interessante, quella tra Basquiat e Madonna, e comincia verso la fine dell'82. Lei si chiama Madonna Louise Veronica Ciccone, frequenta tutti i locali di New York, vuole diventare famosa. Mick Jagger la definì una goccia di talento in un mare di ambizione, e lei un po' lo conferma in un'intervista dell'83. Le persone non sanno ancora quanto io sia brava, ma lo scopriranno presto. Nel giro di qualche anno tutti lo sapranno. Ho progettato di diventare una delle star più grandi di questo secolo. In migliaia hanno detto questa frase e quasi tutti hanno fatto una brutta figura. E lei, invece, aveva ragione. Intanto Basquiat è al Bolmore, un locale alla moda di quegli anni, e sta armeggiando con un po' di erba per farsi qualche canna. Lei lo nota e, insomma, questa relazione diventa un grande trampolino di lancio per entrambi. Lei ha appena debuttato, ha fatto successo, sta lavorando su Lucky Star, che è un'altra canzone che catturerà l'attenzione in tutti gli Stati Uniti. Lui è molto conosciuto ma non è ancora una star. Entrambi ambiziosi, entrambi senza scrupoli. Il mondo del gossip parla di loro. Entrambi ne guadagnano, la storia dura pochi mesi, anche perché lui però ha un problemino, che è in piena tossicodipendenza, anche se sempre in fermento creativo. Nel marzo del 2015 Madonna rilascia una lunga intervista all'Howard Stern Show per promuovere il suo nuovo album Rebel Heart. Parla con i conduttori del suo grande amore. Sentiamo cosa dice. Well, that's a guy you dated, the artist Jean Michel Basquiat. Yes, mm-hmm. You dated him when you were young. Yeah. Quello era un tizio che frequentavi, l'artista Jean Basquiat. Uscivi con lui quando eri giovane, vero? Sì, esatto. E poi l'hai lasciato per via della droga. Sì, lo feci perché si faceva di eroina. Ma tu lo amavi? Sì, lo amavo. Era un uomo incredibile, molto talentuoso. Lo amavo. Avevi qualche sua opera? Sì, ma quando lo lasciai, lui mi costrinse a restituirgli tutto quanto. E poi dipinse tutti i quadri di nero. Ma perché dipingerli tutti di nero dopo? Per fartela pagare? Perché l'avevo lasciato e lui era arrabbiato. È la cosa peggiore che si possa fare, uscire con qualcuno che si fa di droga, perché è frustrante. Ci si chiede, posso fare qualcosa? Posso cambiare questa persona? Non sono abbastanza per renderti felice? È difficile guardare la gente autodistruggersi. È la cosa peggiore. Ho anche conosciuto degli alcolisti e il fatto è che pensiamo sempre che sia possibile guarire queste persone, ma non possiamo. Devono farlo da soli. They have to do it for themselves. E fa piacere sentire dei barlumi di umanità da una come Madonna. La storia con Madonna, le sue opere, il suo stile, il suo modo di fare, sono tutti ingredienti che in qualche modo contribuiscono alla sua veloce ascesa, cioè a quella di Basquiat. I giornalisti si interessano di lui perché è più che un astro nascente. Nell'82 si stima che avesse un tenore di vita che cominciava a superare i $30,000 di spese. Spese ovviamente totalmente futili. Diviene l'artista milionario che gira con mucchi di banconote stropicciate in tasca, veste Armani, sporca gli abiti con pennellate, poi li butta. A 25 anni è già intrappolato in un suo personaggio preciso. Sono gli anni in cui stringe una forte amicizia con Warhol, che lo fa sfondare nel mondo dell'arte come fenomeno mondiale emergente. Il re della pop art chiede a Jean-Michel anche di aiutarlo nelle opere Oxidations, altrimenti note come Peace Paintings. Passano a casa. Ciao Jean. Perfetto, Fred. Prova a schizzare un po' di qua. Da questa parte? Che ci fai con le parrucche? Voglio regalarle per Natale. E secondo te è un bel regalo? A chi può piacere una vecchia parrucca? Ah sì, certo. pittura all'orina. Non pittura all'orina, arte dell'ossidazione. Anch'io odio pulire i pannelli. Voglio farne altri di questi. Frank beve una birra messicana fantastica, che dà questo verde bellissimo. Perché non ci pisci sopra da solo? Non mi piace la birra. Insomma, chissà se Caravaggio avrebbe approvato le pitture all'urina di Basquiat, però siamo in un'altra epoca e c'è il sodalizio artistico con Andy Warhol, che peraltro comincia a scricchiolare, termina nel settembre 85, quando il New York Times definisce Basquiat come la mascotte di Andy Warhol. E allora il nostro eroe, il nostro giovane artista, amareggiato, prende definitivamente il tunnel senza uscita dell'eroina. Fa diverse mostre, però ormai è schiavo della droga. Ascoltando questa zuccherosissima canzone di Elton John dedicata a Marilyn Monroe, Candle in the Wind, lui dirà a un'amica: questo sono io, non sono una persona vera, sono una leggenda. E diventa una leggenda in effetti nell'88, un anno dopo la morte di Andy Warhol. L'attaccamento al re della pop art, che manifesta fino alla fine, lo conduce all'abuso di eroina per superare il trauma, perché l'eroinomane ha sempre bisogno di una scusa valida, non trova stimoli, e il 12 agosto dell'88 è il suo ultimo giorno di vita. I suoi amici lo vedono per l'ultima volta a vagare per le strade alla ricerca di qualche grammo di eroina con molta vodka in corpo. Feb Oban, nel suo libro dedicato a questo genio dell'arte, edito da Castelvecchi, racconta che alla solenne commemorazione pubblica alla St. Peter's Church, avvenuta 3 mesi dopo la scomparsa di Jean-Michel, partecipano i suoi migliori amici, tra cui Keith Haring, che è già malato di AIDS e morirà 2 anni dopo, e il writer Fab Five, Freddy, declama la poesia di Genius Child. È una poesia dello scrittore nero Langston Hughes. Questa è una canzone per il genio bambino. Cantala dolcemente, perché è una canzone ribelle. Cantala piano, più piano che puoi, che non ti scappi di mano. Nessuno ama un genio bambino. Sapresti amare un'aquila, addomesticata o selvatica? Selvatico o addomesticato, sapresti amare un mostro dal nome spaventoso? Nessuno ama un genio bambino. Liberalo e lascia che la sua anima corra, selvaggia. Jean-Michel Basquiat, una vita al limite, una vita a contatto con l'arte, ma anche con la droga, una storia epica e difficile. Ci sono storie che spesso sono sconosciute, di persone che hanno saputo dare dei colpi d'ala nella vita, che hanno saputo volare in alto, ma anche cadere, anche rumorosamente, anche a 27 anni, come a molti è capitato. E ognuno di noi nella sua vita può dare quel colpo d'ala, ma può anche rischiare grosso. Se avete delle storie che volete che noi si racconti, fatelo, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, oppure andate sui miei social, sui nostri social, visitate la nostra pagina su radio24.it. insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Francesca Del Rosso.